Carissimi amici di Iceberg News, un bel Alleger, Paolo Travagnini e Marino Midena, eccoci qua. Ennesima puntata in questa serata fresca, subito, immediatamente i nostri contatti. Contatto telefonico naturalmente 339 39 90 836 per essere con noi al telefono. Per quanto riguarda il contatto telematico, info@icebergnews.it, desumibile dal sito naturalmente www.icebergnews.it, che vi invito a visitare tra un po', perché tra un po' avremo delle numerose aggiornamenti che si stanno verificando proprio in questi giorni, nonché la nostra nuova visibilità. Stiamo acquisendo una visibilità veramente mondiale, tra virgolette, nel senso che sul web, sapete, siamo in tutto il mondo in un click, e i portali e le web TV che ci stanno ritrasmettendo sono veramente aumentate a dismisura, ma lo vedete appena andrete a cliccare proprio sul sito. Naturalmente il vostro materiale, che noi aspettiamo sempre con grande gioia e ansia di scartare, di annusare, di ascoltare, di vedere, lo potete inviare a Paolo Travagnin, a Iceberg News naturalmente, via Ennio Bonifazi 36/5 00167 Roma. Passo immediatamente, come nostro uso e costume, la parola a Marino Midena, che ci svela che cosa ci riserva questa graditissima nuova puntata di Iceberg News. Marino? Sì, eccomi qua in regia, Paolo, per dirti rapidamente quello di cui parleremo questa sera. Fiction e pubblicità con le news, il solito appuntamento con la clip musicale, IG Project, sotto sotto il titolo della canzone che ci propongono, un cortometraggio dei nostri amici della scuola di cinema di Via Panisperna, I/O, di Kevin Spagnolo e di Fabiano Marti, e un graditissimo ospite, Alessandro Coppi, uno scrittore particolare che ci racconta un mondo ancora più particolare, che è quello dei pappagalli, i rimorchioni. È un libro edito dalla casa editrice Croce, che è molto simpatico e vi consiglio di leggere. Paolo, ti lascio la parola a te adesso. Grazie Marino dei tuoi puntuali suggerimenti, e come hai detto giustamente iniziamo immediatamente con il graditissimo ritorno, ma come sapete voi ultimamente lo stiamo trasmettendo perché questo suo nuovo lavoro, IG Project, il nuovo lavoro con Alla Bianca di Ivana Gatti e Gianni Maroccolo, è molto molto gradito, sta riscuotendo un notevole successo proprio nei media. Sotto sotto è il video che ci gusteremo questa sera e fa parte del doppio album CD DVD, chiaramente, e Bastian Contrario. Perciò ci vediamo tra un po' qui sempre su Iceberg News. Non ci lasciate. Valeria. Cosa dovrei fare se amare con le vedove? triste e affamato il mio rosetto, lontana dai vizi, sotto il mondo mescolo questo vestito latteo per schiudermi. Chissà se potrei confonderti, chissà se vuoi. Qualcosa sembra quel che appare, in fondo mi spaventa. Eccoci qui di nuovo in studio, accanto a me uno scrittore, Alessandro Coppi, è un ragazzo giovanissimo, quindi non ci facciamo spaventare da questa etichetta scrittore. Ha scritto un libro simpaticissimo, Pappagalli, storie e aneddoti sui Latin Lover italiani. Ve lo mostro, credo che abbiamo acquisito anche la copertina, quindi se vogliamo possiamo farla vedere, per Edizioni Librie Croce. È uno spaccato della realtà italiana, della società Roma, italiana del costume, società e costume. Esattamente, sì. Esatto. Chi è Alessandro Coppi e come sei arrivato a scrivere questo libro? So che tu tenevi una rubrica sul mondo della notte. Della notte. Ecco, io sono nato come personaggio delle notti romane, facendo alcuni programmi televisivi proprio per le emittenti private regionali e... Poi, diciamo, sono passato con altri programmi in Rai, però, diciamo, per quanto riguarda la notte romana, sì, sono un vampiro, ho tenuto pure una rubrica su una nota rivista romana, il Vivi Roma, con i personaggi della notte, e niente, per quanto riguarda il libro, diciamo, è nato sui banchi di Rai Fiction, è nato come commedia all'italiana, poi l'ho... siccome non volevo metterci le mani solo io, l'ho dato a un mio amico, che è un attore molto famoso, dico come sempre incallito Pappagallo, e lui mi consigliò da scriverci un libro ed è nato Pappagalli. Eh sì, perché nel mondo dello spettacolo ci sono tanti pappagalli. Sono tantissimi, soprattutto nel mondo della politica. Ah, inaspettatamente. I politici sono in primis i più pappagalli, avendo pure il luogo del lavoro... al centro di Roma, dove il centro pullula di turiste, di belle ragazze. Ma tu, come testimone dal vivo, qual è l'identikit del pappagallo? Come si riconosce un pappagallo? Allora, ce ne sono diversi. Quelli che, come dico io nel libro, battono le vie del centro sono vestiti in modo formale, jeans, camicia, camicia tenuta fuori, e cappotto, un trench. Prediligono i colori scuri. Ecco, guarda, sono vestito come un pappagallo. Ti senti un po' jeans, Latin lover, ti senti. Sì, allora. E poi ci sono pappagalli, ecco, i politici normalmente vestono con la giacca e cravatta. Dipende dal ceto sociale del pappagallo. Poi c'è il pappagallo artista. Guarda, io ho una convinzione, Marino, che noi uomini italiani siamo un po' tutti pappagalli, cioè provoloni. Quando vediamo una bella donna, una bella fanciulla, facciamo un po' i cascamorti, no? E lo vediamo nelle storie, nei gossip di tutti i giorni. Allora, io faccio nomi, ma lo vediamo nei giornali che parlano di Saccacco, Berlusconi. Il fulcro delle discussioni sono le donne, certo, invece certo. Parlare dei problemi del paese sono sempre le donne. È vero. E quindi ho scritto questo libro per divertire la gente, ma soprattutto far vedere come va la società italiana. Hai fatto bene a sottolineare italiana, perché mi raccontavi che sei stato contattato da importanti emittenti straniere, televisive, sì, e anche testate, insomma. Quindi... All'estero la novità è recepita diversamente, mentre in Italia, come parlavamo tra di noi, Marino, nei nostri discorsi, in Italia c'è una certa chiusura verso i giovani e le novità, e all'estero sono più propensi ad accettare il nuovo, soprattutto i giovani. Abbiamo manager che hanno 40 anni. Allora, Alessandro, rimani accanto a me. In tema di giovani, restiamo. Ti voglio far vedere un corto realizzato da due giovani, Kevin Spagnolo e Fabiano Marti, dal titolo un po' particolare, I/O. Vediamocelo insieme. Oh mio Dio, non voltarti se vuoi vivere. Ma tu chi diavolo sei? Non ti interessa chi sono. Metti moto e parti. Che cosa vuoi da me? Niente, non voglio niente da te. Voglio solo che acceleri. Che accelero, ma che significa? Facile da capire. Voglio che spingi quel cazzo di pedale! Ma tu chi diavolo sei? Non sono affari tuoi. Vedrai che presto non sarà rilevante. In che senso? Nel senso che voglio morire. E tu morirai con me. Ma che cosa dici? Che significa? Non ce la faccio. Non ce la faccio a vivere così. Senti, ma perché? Che problemi hai? La mia vita è uno schifo. Ma che ne vuoi sapere tu? Giri per la città alle 3 di notte con la tua bellissima macchina sportiva. Guarda che non è così. Non pensare che io non abbia dei problemi. Problemi? Ma che ne sai tu dei problemi, eh? Perché tu che problemi hai? Mi hanno appena licenziato. Ti basta questo? No. No? No. Come? No, perché è successo anche a me. Ma non per questo ho pensato di farla finita. Sì. Ma tua moglie non ti tradisce con il tuo miglior amico? Invece se ti può far piacere, sì. Se vuoi proprio saperlo. Me l'ha detto mia moglie poco tempo fa, un attimo fa. Me l'ha detto per telefono. Sì, adesso ci mancavi soltanto tu. Ma non per questo ho pensato di suicidarmi! Senti, io capisco i tuoi problemi, ma parliamone, cazzo! E di cosa? Eh? Di cosa dovremmo parlare? A me non interessa il fatto che tu abbia i miei stessi problemi. Probabilmente sarai più in grado di me di risolverli, eh? Ma no, guarda che non è così. Non credere che anch'io per qualche volta nella mia vita non abbia pensato... Non guardarti! Cristo santo. Oh mio Dio. Ma com'è possibile? Non lo so. Non capisco. No. No, non può essere, non è possibile. Non lo so. Sta zitto! Non è possibile. Senti, facciamo una cosa. Scendiamo e parliamo, eh? Tu non esisti. Tu non esisti! eccoci rientrati in Iceberg News, vi ringraziamo, vi siete gustati questo corto, non tanto corto, ma molto interessante. Siamo sempre in compagnia con il nostro giovane scrittore, il nostro giovane playboy, no? Una volta, tanti capelli fa. Ok. Allora, non a caso ho citato il termine playboy, perché so che nel libro c'è una parte dedicata proprio al riconoscimento del playboy. Mm-hmm. Io vorrei che così dicesse un po' ai nostri amici a casa come si riconosce un playboy. Allora, dacci questa. Innanzitutto dal metodo di approccio. Ci sono poi le differenze sono varie, cioè quello che approccia in modo più incisivo, quello più spregiudicato, e che va dalla ragazza e far vedere subito che la vuole conoscere. Poi c'è quello che invece è più timido e si fa avanti con la scusa dell'invito in discoteca, oppure quello con la scusa che si è perso dell'informazione, bravissima, vedo che anche lui è un pappagallino. E niente, molti capelli fa, sono vari dei tuoi. Come riconosce? Poi parlavamo prima con Marino dall'abbigliamento, hanno un abbigliamento particolare, soprattutto quelli dei romani del centro di Roma che girano per le vie, per via del Corso, via Condotti, via Nazionale, qua vicino, Televita è vicino a via Nazionale. Sì. E niente, quindi sono varie tipologie in base al ceto sociale. Certo. Poi ognuno ha una propria tecnica di approccio. Certo, che ci sarebbe da stare come al solito delle mezz'ore, ore a discutere di questo. Però magari tra il serio e il faceto torniamo un po' al serio. So che siccome siamo sempre di corsa noi qui a Iceberg, corriamo sempre. E nel libro c'è invece vari interventi di poetici, diciamo, sì. No? Di personaggi. Sono invece personaggi dello spettacolo, esatto. Che si sono travestiti da poeti e hanno scritto dei piccoli interventi sull'argomento, su quello che tratto del libro. Io, diciamo, mi è venuta un'idea lanciando sul blog l'idea della vignetta. E invece quello della poesia ho girato un messaggino a alcuni miei personaggi dello spettacolo e alcuni hanno risposto in modo molto carino e mi hanno mandato il loro intervento. Non riceverò mai invece l'intervento dell'amico Gigi Sabbani, che è venuto a mancare proprio il 4, il 5 settembre notte. Certo. E quello è un intervento che non l'avrò mai. Vorrei ricordare insieme a voi Gigi Sabbani. Sì, di questo ci dispiace anche perché anch'io lo conoscevo personalmente. Sì. Sai. E l'ho sempre reputato un grande personaggio. E poi la sua scomparsa ci è dispiaciuta veramente. Sì, altri interventi, ricordo velocemente Clizia in Corvaia, che fa marchette con Chiambretti, ha un animale da palcoscenico come Alma Manera, il principe Guglielmo Giovannelli e il cabarettista romano Alessandro Serra. Ah, Alessandro Serra, un'altra nostra conoscenza. Siamo in chiusura, che io mi scuso del tempo sempre così incalzante. Anzi, grazie con a voi per la nostra simpatia. È stata una bellissima chiacchierata, ma naturalmente noi invitiamo i nostri amici a andare a leggervelo questo libro, perché ci ha così incuriosito che bisogna farlo. Allora, noi siamo in chiusura, addirittura d'arrivo, ci fanno cenno di spostarci perché siamo un po' squadrati, va bene, comunque non importa. Io volevo ricordarvi soprattutto uno dei nostri cavalli di battaglia, un locale molto molto carino, interessante, il Dune Club. Se volete vedere la programmazione del Dune Club, ecco, la regia addirittura ci manda uno spaccato del locale, un locale dove si ascolta e si gusta veramente musica di classe. Sta a Piazza Venezia, vicino proprio a Piazza Santi Apostoli, grazie Marino, di questa così, mancanza. E perciò chi volesse saperne di più sulla programmazione può cliccare ildunerestaurant.it oppure proprio può prenderlo dal link proprio dal sito di Iceberg News. E vi invitiamo a farlo perché è un locale veramente interessante, dove si gusta musica e qualità gratuitamente, assolutamente gratuito, senza tessera. Siamo fuori tempo massimo. Ci resta solo il tempo per fare il nostro augurio, però questa volta a modi pappagalli, nel senso lo ripetiamo tutti. Aleger! Alla prossima settimana, ciao!